è troppo tempo ti lasciai. Voglio andare in fondo è già toccato ormai. Lento ed invadente il tuo silenzio avvolge me. Rendi amara l'aria che respiro insieme a te. Bye.